le assicurazioni non pagano. Ah, ho capito. Vabbè, allora glielo dirò, perché a me mi scade a marzo del prossimo anno. Sì. No, nessuno ti dice niente. Nessuno ti dice, tu vai di lì, fai l'indiano e nessuno ti dice niente. Ma se ti dovesse succedere qualcosa, mai di voglia ti dovesse succedere qualcosa e vengono a scoprire che tu stai facendo una cura, anche se non insulinica, però per via orale con la pastiglia, e tu non hai dichiarato del rinnovo, perché poi dicono, lei quanti anni è che ha questo problema? 6 anni, ha rinnovato la patente l'anno scorso, perché non l'ha dichiarato? E non lo sapevo, e la legge non la mette ignoranza. C'è la denuncia penale per false dichiarazioni, adesso non mi ricordo com'era la procedura penale, e l'assicurazione non paga, e ti succede un disastro totale. Ehi capo, vabbè che io quando ho fatto la prima l'ultimo rinnovo non ero diabetico ancora, non c'avevo niente. E è successo dopo. Ma neanche io il rinnovo che ho fatto 9 anni fa non c'avevo niente, non ero diabetico. Anche a me mi è venuto 6 anni fa. Però quando devi rinnovare la patente è ciccia, devi dichiarare queste cose, anche quando uno è cardiopatico, quando uno ha questi problemi qua, deve dichiarare il tutto. Purtroppo è così. Vai Franco, io mi fumo la sigaretta un attimo, riprendo subito. Eia, scusa Gianni se ha fatto un po' di ping pong. Sì, altri 5 minuti io poi me ne vado. Avanti già. Eia, gappa. No, come hai detto tu Fra, se vai a Sorso, alla scuola guida, quella che c'è vicino al comune, io ero andato lì, allora praticamente mettono il numero della patente sul computer e ti dice se tu devi fare il rinnovo tramite, cosa ne so, il medico, oppure se lo puoi fare direttamente, te lo fanno loro lì in automatico e fai solo la visita oculistica quando ti danno il giorno di andare, c'è il medico militare, come ha detto Gavino, perché quella scuola guida di Sorso è collegata con la motorizzazione civile, quindi sono proprio in parallelo, e quindi c'è quel ragazzo Giovanni con la moglie e sono un bel bravo, e quindi come tu gli dici che devi fare il rinnovo della patente, ti dice di dargli la patente, guardano il numero di serie, lo mettono nel computer e ti dicono no, va bene, allora tu per fare questo rinnovo della patente per esempio devi farti fare questo foglio e basta. Non c'è bisogno di andare a fare 1000 giri, perché la scuola guida che abbiamo noi a Sorso è proprio una motorizzazione come c'è a Sassari, che sono proprio all'avanguardia in tutto. Infatti io avevo fatto il rinnovo della patente dopo che mi avevano operato la schiena, lo potevo fare perché ancora ero abile, e invece poi quando mi hanno chiamato a visita a Rizzidu o cosa per questa storia della schiena, perché avevo fatto l'aggravamento eccetera, e dopo cosa ne so, neanche dopo 2 settimane, non so cosa mi è arrivato il gozzo che mi viene bloccato la patente dalla motorizzazione, che perché io non ero idoneo, perché avevo la schiena e non avevo più le sensibilità di una volta, e quindi praticamente io ho la patente a casa che scade nel 2028, però la motorizzazione risulta bloccata per idoneità alla guida. E me l'aveva spiegato tutto alla scuola guida, che ero varato, che ero incassato in due, e mi ha detto vabbè, puoi sempre fare il corso del ricorso e te l'aggiorniamo noi, perché io praticamente facevo il rinnovo ogni 10 anni come tutti quanti quelli che avevano la patente, invece che aveva una determinata patologia la faceva o ogni 5 anni oppure ogni 3 anni. Però tu fa cavattino un effizio, passi alla scuola guida, mi dice, guardi che devo fare questo rinnovo della patente quando sarà il tempo che la devi fare. E lui ti dice se la devi fare normalmente oppure dove la devi fare e che fogli ti devi recuperare, che analisi ti servono per poter fare il rinnovo della patente. Tutti no, Gifra. E come ti ha detto Gavino, è tutto magna magna. Lo so, intanto a me adesso cosa ti credi che mi ne date? Ne 3 anni, mi ne date nel buco, 3 anni. Adesso vediamo, dai. Sì, ho visto, questi documenti, ma fanno anche bollo auto, fanno tutto. Io abbiamo fatto in chiesa di Capuzzini, che sono Mattesi, tutte e due autoscuole, ma è tutto un padrone, no? E Capuzzini che da lì mi ha giocato della macchina. Ho ripreso? Sì, ma infatti fra. Allora, Capuzzini mi sembra che ci sia la moglie di chi si vive tipo vicino a Piazza del Comune. E fanno passaggi, fanno anche rinnovi di caccia e sono, guarda, giornatissimi e sono una bottezza e ti dici cosa devi fare e cosa non devi fare, senza stare lì a andare a farmi gli spostamenti e niente, ti dice tranquillamente cosa c'è bisogno e cosa non c'è bisogno. E magari Gavino non lo sa perché, però questa scuola guida che noi abbiamo assorto è una bottenza perché è collegata con la motorizzazione civile e quindi basta che loro ti mettono il numero della patente sul computer e ti dicono se sei idoneo a farla normalmente da loro oppure se devi andare dal medico e fare determinati fugli di analisi per poi poter rinnovare la patente. Tutti no, Gheruyu. E quando l'avevo fatta io si pagava 90 euro, ma si paga 110, insomma, la sua tecnologia. Sì, in effetti è così. E va bene, adesso vediamo. Vediamo come fare. Io, vabbè, quello è collegato sia con l'ACI, sia con la motorizzazione, e tutto, è collegato con tutto, è collegato. Ed è una cosa buona. Anzi, io non lo sapevo che faceva nei bulli, mi hanno detto, mi non fa bisogno andare a Lugo, mi andai in Ghibli. Ah, sono andato e mi ha fatto il bullo. Tranquillo, avanti, capito? Sì, anche questi dove vado io, noi paghiamo il bollo lì, capito? Noi paghiamo il bollo lì e facciamo tutto lì delle vetture. Fra. Gianni, il discorso di prendere e essere collegati con la motorizzazione, sì, è vero, ci sta, però se tu per esempio io ho rinnovato la patente dieci anni fa, e non era ancora avvenuto questa sorta di diabete e quindi non erano informati. Adesso io tra 5 anni, perché dopo che tu passi 50 anni che abbi patologie o non abbi patologie, la patente è sempre ogni 5 anni devi rinnovarla. Non so se lo sapevate, però dopo l'età, dopo che uno ha 50 anni oppure 52 anni oppure 53 anni, dai, dopo che si passano i 50 anni la patente viene rinnovata tassativamente, cioè il rinnovo avviene tassativamente ogni 5 anni. Adesso quando vado in autoscuola allora risulta tutto. Perché? Perché l'anno scorso ho rinnovato con il foglio del diabetologo, quindi allora risulta tutto, devi fare vado a prendere l'appuntamento. Loro entrano nel database della motorizzazione civile e gli risulta. Però se tu fai un rinnovo, no? E sei diabetico e ti succede che hai un'ipoglicemia bassa e ti chiude anche lui e fai un disastro oppure ti ferma la polizia e ti dice che lei che problema ha, che è la glicemia bassa, ti ferma la polizia e dici no guardi un attimino la glicemia bassa, ma lei perché non ha rinnovato, cioè qua il rinnovo della patente, perché dai loro terminali gli risulta tutto, gli risulta tutto, dico, perché lei non ce l'ha, allora anche chi vi va in un controllo e di Zenidù è dichiarato il falso. Avanti, inibiliamo la patente, te ne prendono la patente, ti mettono la sanzione penale, dovendo subire un sinistro, anche non per colpa tua, e anche se ti tamponano, ti chiedono logicamente i documenti, vengono a sapere che tu sei, avete controlli, ve lo dico in un attimo, che tu hai qualche patologia non l'hai dichiarata, sono guai brutti. Ci sono stati fenomeni che non l'hanno fatto, ne hanno abbigliato patente, ne fatto, mi pare se ne hanno pagato anche 12.000 euro di verbale, mi sembra il verbale sia dagli 8 ai 12.000 euro, in base al referto medico che ti rilasciano e che devi presentare tramite un commissario di lì che c'è, perché poi ti mandano a fare questa revisione da un commissario speciale, questi medici che fanno queste perizie, e il perito dice no, tu hai questo tipo di patologia, e di lì fa la sanzione, e mi pare che sia dagli 8 ai 12.000 euro penale, non amministrativa, penale, e le assicurazioni possono anche decidere di non risarcirti, oppure l'assicurazione ti può prendere, ti può anche mandare via dalla compagnia assicurativa e chiedere anche un risarcimento all'assicurazione. Signori, io faccio questo passaggio e poi chiudo. Vai, Franco. Sì, che poi è sempre una cavolata, ma che anche se uno è diabetico, che è segnalato tutto quanto, come stai dicendo tu, un calo di glicemia può sempre scendere, anche, è sempre matessi grossa, sempre lo danno, però tu mi vuoi dire, sì, ma io uso con via l'usania, che uso i rugussini, faccio la mia patologia, ma ne ho rinnovato la patente e continuo. Vabbè, però sempre più o meno far cassa, là si chiama far cassa, io la chiamo fare cassa quella lì, la chiamo. Vabbè, no, io adesso come vado la prima cosa che faccio, ve lo dico, rinnovo la patente a un medico mio, vado al diabetologo e ormai quando è in regola. Bravo, devi prendere, vai e così sei in regola e basta. E non ti faranno fare sicuramente niente, perché tu, il tuo sarà un rinnovo normale, perché non fai insulina, capito? Fare l'insulina vuol dire anche quello, che poi per il rinnovo della patente devi fare queste visite qua, questi controlli qua e basta, no, poi l'altro, il resto è tutto uguale. Però tu, ripeto, prendendo la pastiglia sicuramente il tuo rinnovo sarà normale, non ti chiederanno nulla, magari ti chiederanno la visita per la retinopatia, basta. Io l'ho pagata quella visita lì, di lì a qua al centro, questo dove si fanno le analisi, le visite private, rimane in viale, la via della stazione, dai, di lì proprio a fianco al rifornitore, quello della, proprio di fronte alla frutta e verdura lì, quella frutta e verdura di Spano, S-Lab mi pare si chiama, S-Lab, fanno tutto, fanno, ci sono medici privati che fanno le visite, ma ti danno l'appuntamento in giro di 2 o 3 giorni, uno dice ma 100 euro, ma 100 euro li prendono, me ne ha fatti nulla, li spendo, no, non mi interessa niente, no, così. Infatti il diabetologo mi ha fatto, caspita, ti hai fatto tutte le visite in privato, e beh, vedi tu, a me cosa me ne affutti, io me le faccio in privato, sì, le visite, poi tanto mi dassi il tuo voglio e mi dassi bui i fatturi. non ve l'ha giudito, però l'ha già pensato alla grande. Signori, grazie delle quattro chiacchiere, però si è fatto tardi, domani mattina la sveglia è presto. Domani mattina la sveglia è presto. Io chiudo le trasmissioni qua a 27.105 in frequenza modulata. Ciao Franco, buonanotte a te QRA familiare, ciao Gianni, buonanotte a te e a QRA familiare. Chiudo e non riprendo, ci sentiamo domani, vai Gianni, buonanotte. Eia, andava, dai, allora buonanotte, buona ricarica a te, al tuo QRA familiare. E allora anche io chiudo e ne approfitto anche per salutare a Franco, che tanto anche Franco se ne andrà a fare la buonanotte al sogno d'oro come lui. E niente, magari ci sentiamo alle prossimine. Andave, vero Fra? Ehi capo, dai, ciao, allora Gabri, dai, ci sentiamo. Buonanotte, buon tutto, ce ne ascoltiamo domani se coincide. Ciao anche a te Gianni, buon ascolto di Coccolitti o Pappagallini, ci sentiamo. Ciao Gianni, buonanotte a tutti. Ehi, a KK, ciao, buonanotte.